Noi crediamo che l'arrivo della larga banda rappresentata nel mondo della rete fissa della DSL offra la possibilità di portare qualche cosa di nuovo agli italiani, sia nel mondo delle famiglie che nel mondo delle aziende, e questo è il motivo per il quale come Vodafone abbiamo deciso di iniziare a fare proposte, a fare offerte anche nel mondo tipicamente della rete fissa con il marchio Vodafone, con il brand Vodafone, che trasmette ai clienti una sensazione di servizio, una sensazione di affidabilità, una sensazione di fiducia che crediamo sia importante portare anche nelle case e negli uffici. In qualche modo questo conferma che al momento la rete mobile non è così performante sul lato dati, cioè è necessario il cavo per avere una vera e propria broadband, la banda larga vera e propria. No, io credo che le tecnologie radio, le tecnologie mobili e le tecnologie fisse debbano convivere per fornire sempre al cliente il miglior servizio. Noi come Vodafone arriviamo soprattutto fino ad oggi attraverso le tecnologie mobili, e attraverso le tecnologie mobili portiamo a larga banda a più dell'80% della popolazione in Italia, e la portiamo anche all'estero quando le persone si muovono in campo internazionale. La tecnologia fissa, la DSL in particolar modo, consente di rispondere a dei bisogni più specifici, dei bisogni tipici delle aziende, dei bisogni tipici delle famiglie che hanno bisogno magari di applicazioni video, applicazioni peer-to-peer, altri servizi sui quali la larga banda mobile potrebbe non bastare. Quindi crediamo che mettere insieme le due tecnologie sia il segreto del successo. In mobilità l'operatore, quindi anche Vodafone, ha un ruolo importante anche nell'erogazione di alcuni contenuti. Per quanto riguarda il mondo fisso, quindi internet, il classico internet a cui siamo abituati, voi siete interessati all'erogazione di servizi? Sarete interessati, farete accordi in questo senso oppure no? Ma guardi, io credo che nel mondo della rete fissa, dell'internet fissa, ci siano già moltissimi servizi, moltissimi contenuti, moltissime offerte. Io non credo che come Vodafone vogliamo entrare in modo importante in quello spazio, perché è uno spazio già molto ricco e nel quale operano operatori che hanno competenze specifiche del mondo media, del mondo internet, e noi preferiamo fare bene il nostro mestiere, cercare di fare bene il nostro mestiere come operatori di telecomunicazioni, portando un servizio semplice che funzioni bene a un prezzo conveniente, e poi lasciare che aziende con caratteristiche diverse, dalle Facebook alle YouTube, alle Google, alle Yahoo, alle aziende del mondo dell'informazione e dello spettacolo, dell'intrattenimento, vadano avanti a fare ciò che stanno già facendo molto bene.